Si ostina e mi sento un po' storto. Settanta, ottanta è il fusillo di queste otto ore, di certo non brilla, ma mi sembra un po' che I'm not afraid to die.